Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, l'appuntamento con le storie dell'Italia in controluce, oggi puntata dedicata alla campagna elettorale. Andiamo in Campania a conoscere i candidati e soprattutto le loro proposte su due argomenti cari a questa regione: il tema della legalità e della lotta alla corruzione e quello della gestione dei rifiuti cercando di uscire dall'emergenza. Vincenzo De Luca, sostenuto dal Partito Democratico, Sinistra e Libertà, Italia dei Valori, Verdi e API, punta a succedere nel centro-sinistra ad Antonio Bassolino. Come affronterebbe il tema della lotta alla corruzione? Ma innanzitutto è essenziale che le amministrazioni pubbliche garantiscano il massimo di trasparenza. La regione per me dovrà diventare una casa di vetro. Ogni atto della regione dovrà essere pubblico, dai contributi alle procedure concorsuali, tutto pubblicato sul sito della regione. Occorre ovviamente che ci siano anche comportamenti coerenti. Devo dire che da questo punto di vista questa campagna elettorale è stata molto istruttiva, nel senso che ritroviamo candidature francamente sconcertanti. Ritrovare un ex consigliere regionale come Roberto Conte, candidato con il Popolo della Libertà, dopo essere stato condannato per associazione esterna di carattere camorristico, dopo essere stato dichiarato decaduto dal Consiglio regionale, e vederlo di nuovo riproposto è qualcosa che sconcerta. Questo significa non avere una linea chiara. Io dico no ai voti della Camorra, gli altri dicono sì ai voti della Camorra. Questo è. Stefano Caldoro, candidato del Popolo della Libertà, la sua ricetta per la legalità in Campania. Ma intanto un forte collegamento con il governo nazionale, che come è noto sui temi della sicurezza ha una competenza quasi esclusiva. Quindi straordinario, devo dire, il piano approvato dal governo Berlusconi e presentato dal Presidente del Consiglio, che è il piano straordinario di contrasto alla criminalità organizzata. Tra l'altro questo governo ha raggiunto risultati importantissimi in termini di contrasto alla criminalità, confisca dei beni, l'arresto dei maggiori latitanti, quindi c'è un controllo sul territorio importante, un segnale forte per le regioni del sud, fortissimo anche per la nostra regione, e quindi su questo un forte collegamento tra la regione Campania e quello che deve fare in materia di controlli, soprattutto di cultura della legalità, che è fondamentale, e le iniziative del governo nazionale, quindi un contrasto che si vince solo uniti alla grande criminalità organizzata, alle mafie, alla camorra. C'è poi un problema di sicurezza del territorio, la microcriminalità molto diffusa nelle regioni del sud, molto diffusa in alcune grandi città, in particolare la città di Napoli, e su quello bisogna intervenire con azioni di controllo sul territorio, preventivi, anche utilizzando non solo più uomini, questo è evidente, ma anche strumenti che le tecnologie oggi ti danno, come i telerilevamenti, telesorveglianza, tutta una serie di iniziative che dobbiamo fortemente intensificare per garantire ai cittadini la sicurezza. Paolo Ferrero è il candidato della Federazione della Sinistra, punta a togliere alla politica le scelte dei responsabili dell'amministrazione. La prima è quella di evitare tutte le nomine politiche fatte da parte della Regione, e cioè io propongo che tutte le nomine, a partire da quelle dei dirigenti delle ASL, per scendere giù a tutte le altre nomine della Regione, vengano fatte sulla base del merito e quindi della presentazione di curriculum, che una giuria, diciamo, di tre persone al di sopra delle parti scelgano sulla base dei migliori e questi vadano a dirigere. Io penso che la rottura dei rapporti clientelari tra forze politiche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni sia un punto decisivo per impedire che la pubblica amministrazione funzioni per favori invece che per garantire i diritti come dovrebbe essere. Roberto Fico del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, queste le sue proposte per la legalità. Prima cosa da fare in questo caso qua è già a monte, quindi quando vengono presentate le liste, cercare di presentare le liste il più possibile pulite, e quindi per esempio nel nostro caso non abbiamo candidato in nessun modo persone che abbiano carichi pendenti, quindi processi in corso oppure condanne, e questa è la prima cosa che uno deve fare, perché chi va a amministrare che deve fare le leggi, non deve essere in nessun modo fuori legge o in dubbio o in odore di qualcosa che sappiamo benissimo in questa regione sarebbe un danno. Prima proposta è che ci sia un'anagrafe delle aziende che partecipano agli appalti, e quindi un'anagrafe generale che non c'è, di quelle che partecipano, di quelle che perdono, di quelle che vincono, in modo da avere un database subito facile da consultare per fare dei controlli incrociati per vedere se partecipano sempre le aziende, i nomi e così via. La seconda è che la Regione Campania si deve costituire sempre parte civile nei processi per camorra, e la terza, importantissima, è che le aziende non devono produrre più l'autocertificazione antimafia, ma è la prefettura che deve produrre riguardo l'azienda la certificazione antimafia. Italia in controluce. Secondo tema di interesse in vista del voto in Campania è la gestione dei rifiuti. Come visto in questi giorni, la questione è tutt'altro che risolta. È bastato qualche giorno di sciopero dei dipendenti delle aziende che si occupano del ritiro dei rifiuti sulle strade per ripiombare nel caos. Quali soluzioni strutturali a questo problema? Sentiamo Vincenzo De Luca, candidato del centro-sinistra. Riterrei utile smetterla con la propaganda, perché l'emergenza rifiuti non è assolutamente risolta. Noi abbiamo soltanto accumulato i rifiuti di Napoli nelle discariche e il resto della regione, abbiamo continuato a accumulare coballe fra Giugliano e Villa Literno, 7 milioni di tonnellate, nessuno si pone il problema di come smaltirle, non abbiamo impianti di compostaggio in funzione, non abbiamo deciso sul piano per i termovalorizzatori, niente di niente. Quindi davvero rischiamo di avere nuove emergenze, perché fra l'altro i programmi di raccolta differenziata rimangono al palo, perché tanti comuni non ce la fanno e avrebbero bisogno di aiuto, almeno i comuni virtuosi. Io sono per sviluppare esattamente questo programma di raccolta differenziata, realizzare gli impianti di compostaggio, ridurre i termovalorizzatori, basta Cerra, forse mezzo impianto a Salerno, ma può bastare così se si sviluppa la raccolta differenziata. E poi sui temi dell'ambiente, io sono per dire no alle centrali nucleari e no alla privatizzazione dell'acqua. Un piano strutturale per la gestione dei rifiuti per Stefano Caldoro, candidato del centrodestra, è da qui che deve ripartire la Campania. Ma intanto avere un piano, cosa che non c'è stato in questi 15 anni di fallimento della politica del centro-sinistra, hanno fallito, ma non voglio personalizzare, perché poi si butta la croce solo addosso a Bassolino, è un errore, nel senso che Bassolino, la Iervolino, ma De Luca sono gli esponenti politici che hanno avuto potere in questi 15 anni nella nostra regione, non hanno raggiunto gli obiettivi, hanno fallito politicamente, alcuni di loro, devo dire Bassolino in particolare, ha dato il gesto nobile del passo indietro, gli altri invece con una certa arroganza non vogliono chiedere neanche scusa degli errori che hanno commesso. Ecco, la vicenda rifiuti è la cartolina del fallimento della politica del centro-sinistra in Campania. Berlusconi e il governo nazionale hanno risolto il problema dell'emergenza, spetterà a noi domani fare finalmente un piano vero integrato in particolare del ciclo dei rifiuti. Ma io, come ho detto, il nucleare è un'opzione strategica internazionale, europea, l'Italia non può essere fuori da questa opzione. E quello che poi succederà sulla scelta della localizzazione è una questione prevalentemente tecnica. Poi se deve esserci una localizzazione in Campania, su questo i tecnici sono molto molto molto dubbiosi, nel senso che la Campania non è la regione ideale per ragioni idrogeografiche, per rischio sismico, ideale per una centrale del genere. L'emergenza rifiuti non è finita per Paolo Ferrero, candidato della Federazione della Sinistra, che dice no agli inceneritori. Intanto l'emergenza rifiuti continua, perché non è stata per nulla risolta da Berlusconi. Noi proponiamo la raccolta di rifiuti differenziata, fatta porta a porta su tutto il territorio regionale, riducendo per questa via la quantità di rifiuti da portare in discarica, quindi raccolta di rifiuti differenziata, riciclare, riusare ed evitare qualsiasi inceneritore, perché laddove c'è un inceneritore c'è un imprenditore interessato a bruciare molti rifiuti indifferenziati, e in questo modo si romperebbero anche i rapporti con la camorra, che sul traffico dei rifiuti fa lauti guadagni. Nucleare no, e utilizzare il denaro, l'enorme quantità di denaro messa dal governo Berlusconi per il nucleare a favore delle fonti energetiche rinnovabili, solare, eolico, geotermico. E sulla chiusura dell'inceneritore di Acerra è d'accordo anche Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Il piano che abbiamo presentato nel nostro programma, è un piano che già abbiamo presentato per far uscire la Campania fuori dall'emergenza un anno e mezzo fa ed è stato rigettato ai cittadini e quindi siamo noi che questa volta lo portiamo. Il primo punto sicuramente è chiudere immediatamente l'inceneritore di Acerra e far partire una vera raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio campano, attuando una divisione del secco e dell'umido nelle nostre case, costruire gli impianti di compostaggio in modo che possano ricevere l'umido e creare compost e quindi fertilizzante per la nostra regione e gli altri materiali come la plastica, il vetro, il ferro, che sarebbe il secco, avviarlo nella filiera dei materiali, della materia e dei materiali corta, e quello che rimane può andare tranquillamente in un impianto di smaltimento di questo tipo, un TMM, trattamento meccanico manuale, che ancora produce un ulteriore residuo che può essere fatto una sabbia sintetica e vendere i mattoni per l'edilizia come oggi fa Vedelago. Nucleare assolutamente no, perché è una tecnologia del passato totalmente inutile e folle da tutti quanti i punti di vista, e anche no allo stoccaggio di scorie nucleari nella nostra regione. È tutto per questa puntata speciale di Italia in Controluce dedicata alle elezioni in Campania. Ci sentiamo lunedì prossimo. Buona giornata.